Siamo qui alla Mesia Terme il 17 novembre insieme a tutte le piazze del mondo per lottare al diritto allo studio. Purtroppo abbiamo avuto l'appoggio di tutti i dirigenti, ma gli alunni molti hanno preferito rimanere a casa. Stamattina siamo pochi e abbiamo cercato di lottare contro le scuole trasformate in carceri, con le telecamere, i ripetuti controlli alla polizia, contro soprattutto le università che diventano sempre più selettive. Abbiamo cercato di essere in concomitanza con tutti gli stati che stanno lottando per un diritto allo studio. Gli stati che non ce l'hanno lottano per ottenerlo e noi che ce l'abbiamo lottiamo per mantenerlo, perché ce lo stanno togliendo. Questa mattina adesso abbiamo concluso la manifestazione davanti alla cattedrale, abbiamo un sacco di striscioni e tutti stanno cantando e stanno cercando di concludere divertendosi il più possibile. Ho cercato di coinvolgere tutte le scuole e purtroppo alcuni istituti come il professionale, la ragioneria non hanno aderito alla manifestazione, soprattutto il liceo classico, il liceo scientifico e il magistrale. Abbiamo cominciato verso le 9, un'ora e mezza di corteo, ci siamo fermati ogni tanto in mezzo alla strada con l'aiuto dei vigili, abbiamo letto passi dallo statuto dello studente, dalle dichiarazioni dei diritti, abbiamo letto un po' le percentuali degli alunni che non concludono gli studi, non concludono gli studi universitari, e adesso stiamo concludendo con un po' di musica.